2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 13 marzo 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale, quindi il nostro indirizzo di posta elettronica, è 2024@radio24.it. Vi ricordo che la nostra trasmissione è disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Potete trovare anche tutte le indicazioni per riascoltare le nostre vecchie puntate e vi ricordo anche che il file MP3 di 2024 sarà disponibile attraverso il servizio podcast, un servizio gratuito messo a disposizione da Radio 24 oggi entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potrete riascoltarlo a partire al massimo dalle 18:30 del sabato. Per questo ringraziamo i nostri tecnici, oggi in regia Fabio Cantadori. Abbiamo alcune notizie della settimana prima del nostro approfondimento, oggi quello principale dedicato alle tecnologie di riconoscimento vocale e anche alle tecnologie di sintesi vocale, quindi macchine che riescono a capire quello che l'uomo dice e macchine che riescono a tradurre ad esempio un testo oppure un'idea che viene elaborata dal computer in voce simile a quella umana, partendo da una traccia umana, quindi una sintesi che nasce da un ingrediente umano, ma di questo parleremo più tardi. Parliamo di pirateria. Nonostante la presenza in Francia di una severa legge antipirateria, negli ultimi mesi il numero di chi scarica musica illegalmente è aumentato del 3%. In Francia è in vigore, lo ricordiamo, una legge, la famosa H2P, che prevede un sistema di controllo degli utenti che in caso di download illegale vengono avvisati da un'apposita authority. Al terzo avviso scatta il distacco della connessione ad internet, una legge che è stata molto criticata, ne abbiamo parlato anche 2024, che tra l'altro costa molti soldi ai cittadini francesi per questo sistema di controlli e che finora, stando almeno a questa ricerca, è stata inefficace. Lo studio è stato realizzato dall'Università di Rennes, mette tra l'altro in evidenza che la metà degli utenti di internet che compra contenuti usa anche piattaforme illegali. Se a questi utenti fosse sospesa la connessione internet, dicono quindi i ricercatori dell'università, sarebbero colpite anche le vendite legali di musica e video. C'è chi dice infatti che molta gente scarica illegalmente file musicali, poi acquista da piattaforme legali, quindi in questo caso ci sarebbe un intervento che danneggerebbe anche il mercato legale. La Sony ha presentato il nuovo controller della PlayStation. Da un po' di tempo non c'erano novità per la PlayStation, arriveranno in autunno, questo controller sarà disponibile in autunno, così come quello della Wii di Nintendo. Il nuovo comando Sony sarà senza fili e sarà soprattutto sensibile ai movimenti. Sempre per interagire con i videogiochi, la Microsoft si prepara invece a lanciare nei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del 2010, un sistema di controllo che per ora ha solo un nome in codice, si chiama Progetto Natale e prevede, grazie ad una telecamera, ad un microfono e ad un sensore di profondità, di interagire con il videogioco con i soli movimenti del corpo o di oggetti. Quindi magari uno ha una spada, un martello in mano, muovendolo interagisce con il videogioco. Questo, che adesso chiamiamo Natale con questo nome in codice, sarà un accessorio della Xbox 360. Parliamo di telefonini. La Nokia ha depositato negli Stati Uniti un brevetto per produrre un telefonino piezoelettrico che riesce cioè ad ottenere energia dal movimento. Il principio su cui si basa il meccanismo è noto da tempo, ci sono sperimentazioni in tutto il mondo e anche progetti soprattutto in ambito militare per ricavare energia da movimenti anche molto brevi, molto delicati. Il problema è riuscire a rimpicciolire questo meccanismo e ad annegarlo, diciamo così, nel telefonino, ottenendo un effetto del tutto simile a quello di un orologio automatico che si ricarica sfruttando il movimento del polso. Ma un conto è fare funzionare un orologio, un altro è fare funzionare uno smartphone che, lo diciamo molto spesso, consuma sempre di più perché ha uno schermo che si allarga sempre di più, almeno 4 o 5 antenne per controllare le varie connessioni, deve fare funzionare la fotocamera, eccetera, eccetera. Insomma, quindi sicuramente una tecnologia molto complessa. C'è una notizia che riguarda un dominio internet. Da un po' di tempo non si parlava di domini. Sex.com, considerato uno dei domini web più redditizi al mondo, sarà battuto all'asta giovedì 18 a New York. Se siete interessati a partecipare all'asta, sappiate che la base è di $1 milione. Nel 2008 l'asta di www.pizza.com incassò $2.5 milioni. Per sex.com si parla di una cifra superiore. Vedremo la prossima settimana. È quasi certa la chiusura di Google in Cina. Il più grande motore di ricerca della Terra abbandonerà molto probabilmente il più grande mercato del mondo, che già oggi è numero uno anche per il numero di utenti di internet. La notizia è stata diffusa oggi dal Financial Times, secondo cui i colloqui con il regime di Pechino sono al momento fermi e quindi Google è certo al, così scrive il Financial Times, al 99,9% di chiudere il suo sito cinese. Tutto nasce, alcuni di voi lo ricorderanno, dopo gli attacchi che Google ha subito negli ultimi mesi e per i quali la società californiana ha accusato la Cina. Il governo cinese si è sempre difeso respingendo le accuse, ma è molto probabile che ci siano le autorità dietro le violazioni informatiche che hanno colpito l'America nelle ultime settimane, non solo Google ma anche altre società. C'è chi dice è così controllata la rete internet in Cina che sicuramente il governo, se non direttamente responsabile, sapeva quello che stava succedendo. Google ha detto che non avrebbe più rispettato la censura cinese e questo, in mancanza di un accordo con Pechino, porterà alla chiusura in Cina, che secondo appunto il quotidiano britannico è più vicina. Anche Obama ha parlato recentemente del problema. Questo è un tema molto sentito negli Stati Uniti perché sono in gioco tutte le conoscenze, il know-how, la proprietà intellettuale sulla quale vive gran parte dell'economia occidentale e soprattutto quella americana. Un altro tema importante è quello della diffusione della banda larga. Mentre anche in Italia si discute su una rete di nuova generazione per creare una rete di connessioni in banda larga o, come dicono alcuni, ultra banda larga che raggiunga tutte le case degli italiani, negli Stati Uniti martedì la Commissione federale per le comunicazioni presenterà al Congresso un piano decennale che punta a creare una nuova rete che possa essere il mezzo di comunicazione dominante nel paese. Nel frattempo, ad un convegno dove erano presenti anche Mediaset e Sky Italia, Franco Bernabè, che è amministratore delegato di Telecom Italia, ha detto che bisogna prepararsi perché se utilizziamo un approccio difensivo ci troveremo probabilmente davanti ad un'aggressione che verrà da Google e da Hulu. Hulu è una piattaforma per la diffusione di contenuti video negli Stati Uniti e Bernabè dice dobbiamo trovare insieme una risposta prima che arrivino in Italia. Beh, speriamo che si pensi non solo ad internet come un modo per diffondere la TV e quindi non solo la TV sia una spinta per creare questa rete di prossima generazione, ma anche tutta una serie di servizi che vanno da quelli per le aziende a quelli per i cittadini, alla pubblica amministrazione digitale, eccetera, eccetera. Di questo tema, anche di quelli a cui abbiamo accennato poco fa, dovrebbe occuparsi la politica, soprattutto negli ultimi tempi, anche della salvaguardia della libertà grazie alla quale la rete internet è cresciuta, si è estesa e ha creato milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Di tutto ciò dovrebbe occuparsi anche la politica. Un richiamo a tutti gli uomini politici è arrivato questa settimana dal presidente della Camera, Gianfranco Fini. Ve lo facciamo ascoltare perché è una rarità che un politico così alto in grado interviene su questo tema in modo così preciso e deciso. Personalmente sono fermamente convinto che la politica, in primis le istituzioni, non possano rimanere silenti di fronte a questa grande innovazione tecnologica, debbano partecipare attivamente al dibattito, abbiano il dovere di approfondire la riflessione su questo mondo e debbano sforzarsi di cercare le istituzioni dei nuovi criteri interpretativi, proponendosi quindi di guardare al futuro prossimo venturo, a quel che in qualche modo è già nella nostra quotidiana realtà, con uno sguardo lungimirante. ...2024... Tra poco parleremo di riconoscimento vocale e di sintesi vocale, una tecnologia, un insieme di tecnologie che già possiamo utilizzare su strumenti semplici come i telefonini, ma che utilizzeremo sempre di più in futuro per interagire con ciò che ci sta attorno, anche magari con la nostra autoradio sempre di più. Vorrei farvi ascoltare però altri secondi dell'intervento che questa settimana il presidente della Camera Gianfranco Fini ha tenuto ad un dibattito, ad una conferenza che c'è stata proprio alla Camera sulla libertà e internet, intitolato Internet è libertà, e una delle domande che ci si faceva è come facciamo per salvaguardare la libertà che ha fatto crescere la rete internet. Credo che l'Italia non debba correre il rischio di rimanere prigioniera del ritardo culturale che può derivare da una visione della questione vecchia, superata. Si tratta di una posizione di retroguardia che va superata anche per evitare che l'Italia non venga troppo distanziata da quegli altri paesi europei che saggiamente investono cospicue risorse finanziarie a sostegno della rete. Per introdurre la nostra discussione, desidero innanzitutto ricordare la raccomandazione sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet, votata quasi all'unanimità nel marzo dello scorso anno dal Parlamento europeo. Secondo questa raccomandazione, Internet, virgolette, dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione. Secondo la raccomandazione, il diritto che gli Stati membri qualche volta rivendicano di intercettare e controllare il traffico su Internet non può essere giustificato dalla lotta al crimine. Questi naturalmente sono principi, ma è bene sottolineare che il presidente di una Camera di uno Stato europeo fa un richiamo a tutta la politica per occuparsi di questi temi. Dicevo, principi che poi risolvono poi in azioni quotidiane che possiamo o che non possiamo fare tutti i giorni. Dicevamo che la politica dovrebbe occuparsi di nuove tecnologie, delle nuove tecnologie informatiche, anche perché la loro diffusione è un contributo al benessere economico del nostro paese, un contributo alla crescita di produttività delle nostre aziende di cui abbiamo estremo bisogno, soprattutto in un momento in cui il settore IT in Italia soffre. Secondo Assinform, l'associazione di settore di Confindustria, nel 2009 c'è stato un calo dell'8,1% e le stime per il 2010 indicano una ulteriore flessione del 3,1%. Paolo Angelucci, che è il presidente di Assinform, ha detto che sebbene l'IT con 400.000 addetti e 97.000 imprese sia il quarto settore industriale in Italia, non solo non riscuote dalla politica la giusta attenzione, ma il suo impatto economico e occupazionale, nonché le sue potenzialità nei processi di sviluppo del paese, sono largamente sottovalutati dalle istituzioni. E la finiamo qua con i richiami, però facciamo un appello a tutti coloro che guardano alle nuove tecnologie con la stessa ottica che abbiamo espresso poco fa, e non sarebbe ad esempio una cattiva idea leggersi i programmi elettorali per queste prossime elezioni regionali anche con questa ottica, andando a vedere se qualche punto di questi programmi pensa alla diffusione della rete, all'utilizzo delle nuove tecnologie anche per alcune applicazioni a livello regionale. Abbiamo cambiato argomento. Quella che state ascoltando è una voce sintetica di un piccolo aggeggio che si chiama iLane, in vendita negli Stati Uniti, ed è un sistema che si collega ad esempio con il nostro smartphone e ci permette di leggere le email che ci arrivano, ascoltare la nostra voce mentre magari dettiamo un messaggio in risposta ad una email che ci è arrivata. Say goodbye when finished. Hi Brian, I got your email. 8 o'clock works for dinner. I'll see you then. Goodbye. Your voice recording is complete. Tutto ciò è possibile grazie al riconoscimento vocale, quindi il computer che riesce a riconoscere quello che noi diciamo e ad eseguire quindi determinati e conseguenti comandi, e anche alla sintesi vocale, quindi la capacità di leggere con la voce un messaggio magari di posta elettronica che è arrivato. Per parlare di questo saluto Davide Franco, che è amministratore delegato di Loquendo. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico, buongiorno. Voi siete un'azienda italiana che si occupa di queste tecnologie di riconoscimento vocale, di sintesi vocale, cose molto complesse ma il cui utilizzo poi è estremamente semplice. Magari lo possiamo fare anche su uno smartphone grazie ad una serie di prodotti che arriveranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Che cosa fate? Ha toccato un tema fondamentale, proprio la semplicità d'utilizzo è uno dei punti cardine dell'adozione di queste tecnologie. Loquendo, come ha detto, è un'azienda italiana del gruppo Telecom Italia che sviluppa tecnologie molto, molto peculiari che nascono da 30 anni di ricerca sul trattamento del segnale all'interno dei centri di ricerca di Torino. Questa ricerca ha portato negli anni ad un'evoluzione sempre più naturale di quelli che sono i sistemi di sintesi, quindi di interazione tra una macchina e un umano, quindi per poter comunicare delle informazioni che tipicamente possono avere anche una certa dinamicità nel loro evolversi, che possono essere contestualizzate su diversi ambiti applicativi. E da un altro lato invece lei citava il tema del riconoscimento, quindi di comprendere quello che un umano in condizioni non standard, quindi in cui non può interagire con touchscreen, con tastiere, con mouse, con oggetti che richiedono l'utilizzo degli occhi e l'utilizzo delle mani, delle dita per interagire, complementare questa impossibilità con uno strumento che invece è in grado di riconoscere la voce anche in modo molto naturale. C'è chi dice che oggi c'è una grande attenzione sulle tecnologie touch, quindi io tocco degli schermi e interagisco con la macchina in questo modo. C'è chi dice che invece questo sarà un utilizzo di passaggio, perché in futuro l'interazione sarà sempre più basata sul linguaggio, quindi noi diremo delle cose alla macchina, la macchina dovrebbe rispondere a tono. Abbiamo con noi anche alcuni vostri compagni di lavoro, potremmo chiamarli così. La prima è Giulia, che vorremmo ascoltare giusto per cominciare a capire qual è il risultato di quello che voi fate. Il risultato è semplice: la procedura, il processo, il lavoro che ci sta dietro, poi magari accenniamo a qualche cosa, è estremamente complesso e molto lungo. Perfetto! Parlo quasi come un umano. Fantastico! O preferite sentirmi dire fantastico! Ora potete scegliere. Arrivederci oppure arrivederci. Grazie e scusate ancora. Oppure grazie e scusate ancora. Questa è Giulia, e ci fa sentire anche alcune intonazioni. Come si fa ad arrivare a questo risultato? Sì, ecco, abbiamo sentito due elementi che sono fondamentali nel nostro lavoro. Uno è il timbro, quindi la piacevolezza della voce, l'altro è l'intelligibilità. Noi lavoriamo partendo da una voce umana, quindi il tutto nasce da noi che continuiamo a essere fortunatamente più intelligenti delle macchine e più completi delle macchine. Da questa voce umana vengono estrapolati quelli che sono i parametri fondamentali per insegnare al cervello della macchina qual è il modo per riprodurre una determinata voce. Quindi la naturalezza, l'espressività che avete potuto sentire poco fa sono proprio frutto di questo studio che include anche molte attività, mi piace dire artigianali ancora, quindi abbiamo degli esperti, dei ricercatori, degli scienziati che lavorano in modo molto manuale su queste fasi di creazione della voce, che rendono unica e molto, molto apprezzabile, noi riteniamo, il risultato. Quindi la macchina impara dall'umano come fare a comportarsi. Voi per arrivare a questo risultato fate leggere un testo a uno speaker o a una speaker? Noi abbiamo delle metodologie brevettate, l'azienda ha un centinaio di brevetti internazionali, alcuni di questi normano proprio quelle che sono le modalità di creazione di questa voce, quindi l'azienda è un'azienda italiana high tech che combatte sul mercato internazionale, quindi mi permetto di citare che abbiamo una decina di sedi distribuite all'interno dei vari continenti, abbiamo qualcosa come 1100 clienti, 10 milioni di licenze nel mondo dei navigatori e dei cellulari, quindi nel mondo che si dice embedded. Questa distribuzione ci permette anche di essere più vicini e sviluppare queste 29 lingue che attualmente abbiamo disponibili a portafoglio e comprendere quelle che sono le regole del linguaggio che stanno alla base di ciascuna di queste lingue. Ecco, tornando sempre al lavoro artigianale che voi fate, quindi fate leggere nelle 29 lingue che voi riuscite a produrre dei testi, e qua sta un po' il segreto poi dei brevetti che voi avete, dei testi, e da quei testi poi tagliuzzate le voci e ricavate gli ingredienti fondamentali, poi li date in pasta ad una macchina, e la macchina può dire a quel punto qualsiasi cosa, più o meno questa è un po' la traduzione. Esattamente, esattamente così. Quindi noi partiamo da una voce umana, con un processo molto simile a quello che ha descritto. La macchina, il computer, può effettivamente dire tutto quello che noi vogliamo? Sì, la macchina apprende oltre all'intonazione, al timbro della persona che viene utilizzata per generare la voce, apprende quelle che sono le regole linguistiche specifiche per ciascun linguaggio, per cui è in grado di sintetizzare parole a prescindere da un vocabolario di partenza, quindi semplicemente applicando quelle che sono le regole linguistiche. Ad esempio, sull'italiano ci sono alcune peculiarità di accento, di intonazione, di selezione di quelle che sono le unità acustiche che citava prima, quindi quegli elementi elementi fondamentali della composizione della voce che vengono ripresi in modo differente a seconda del tipo di parola che deve essere generata, sintetizzata come segnale acustico. Vi ricordo che il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast entro al massimo un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi entro le 18:30. Ringraziamo come sempre i nostri tecnici, oggi Fabio Cantadori. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, quindi 2024 e radio24.it. Vi invitiamo a visitare anche il nostro sito internet www.radio24.it. Il nostro programma va in onda il sabato tra le 16 e le 17. Io sono Enrico Pagliarini e come sempre ringraziamo anche Anita Riotti in redazione. Adesso stiamo parlando di sintesi vocale, di riconoscimento vocale con Davide Franco, che è amministratore delegato di Loquendo, un'azienda italiana in un settore dove non sono tante le aziende, perché la tecnologia per riprodurre la voce umana, per far sì che un computer riconosca quello che noi diciamo o che sia capace di parlare, queste tecnologie sono estremamente complesse. Adesso abbiamo, per continuare la nostra chiacchierata, anche Luca. Sentiamo che cosa ci dice. Venezia è una città particolare. Unica al mondo nel suo sviluppo urbano, Venezia colpisce per l'intreccio di ritmi e colori che da San Marco e dal Palazzo Ducale si allargano per tutto il centro abitato, riproponendosi nelle facciate, nei ponti e nei canali. È una vera e propria città d'acqua, condizionata in ogni suo aspetto dalla presenza del mare, in quell'ambiente originale che è la laguna. Qua si conosce più che stiamo ascoltando la Sì. voce di una macchina. Esatto, perché sia la prima che la seconda sono il risultato assolutamente automatico, quindi non c'è nessuna tecnica di trattamento a posteriori del segnale, quindi può essere generato in tempo reale molto rapidamente anche su volumi molto, molto elevati di traffico. La peculiarità è che in contesti in cui la punteggiatura o la tipologia di contenuto non è particolarmente normalizzata o formalizzata, il sistema cerca di inserire quelle pause prosodiche che abbiamo percepito. In alcuni casi, fortunatamente, non è perfetta come un umano, però in alcune applicazioni è fondamentale avere un'intelligibilità molto elevata, come dicevamo prima, e quindi su alcuni contesti è più importante avere naturalezza, su altri è più importante avere intelligibilità. Queste voci, o comunque in generale le voci che voi riuscite a far pronunciare alle macchine, quindi ai computer, sono frutto di un testo che io scrivo, la macchina legge il testo con una voce sintetica, oppure sono frutto di una comprensione di magari una domanda e la macchina risponde a tono? Che cosa? Cioè, cerchiamo di capire anche poi l'utilizzo che noi possiamo fare di queste voci. Certo, qui è molto interessante approfondire un tema che credo sia più peculiare delle nostre culture, quindi delle culture latine. La macchina è in grado di generare questo segnale acustico, questa voce, questo parlato, partendo da un testo scritto proprio con i caratteri che utilizziamo per scrivere un testo. Diverso è la comprensione, quindi quell'ulteriore elemento che manca in un sistema di dialogo, quindi quello che noi chiamiamo tecnicamente riconoscimento vocale. Ecco, riconoscimento vocale è l'opposto, se vogliamo, quindi non è la macchina che parla con un umano, ma è l'umano che deve farsi comprendere da una macchina. Citavo prima il fattore culturale, perché la cultura latina è meno predisposta ad essere collaborativa con una macchina sulla quale c'è una certa diffidenza, manca ancora l'amico computer o l'amico macchina come paradigma di tutti i giorni. Personalmente ritengo che con la pervasività delle applicazioni che stanno nascendo e si stanno evolvendo ancora di più in quest'ultimo periodo, questo gap rispetto alle culture tipicamente anglosassone sia in fase di riduzione. Nel particolare la comprensione del linguaggio è una tematica che viene affrontata dai nostri sistemi sia in modalità più tradizionale, quindi tutti ricordiamo l'interazione con i sistemi automatici, risponditori automatici che tecnicamente vengono detti IVR, Interactive Voice Response System, e quindi quelle interazioni che eravamo abituati a fare utilizzando una tastierina, utilizzando quei toni detti DTMF, quindi quei segnali acustici che venivano compresi in modo univoco dalla macchina e veniva ripresa da un'applicazione quello che era il numero che veniva digitato sulla tastiera. Ecco, questo paradigma può essere superato e può essere reso molto più fruibile dal punto di vista di un cliente, perché con la comprensione di un linguaggio, sia con tecnologie molto legate a quello che noi chiamiamo command and control, quindi riconoscimento di comandi secchi che in alcuni contesti sono ancora fondamentali, spingendosi fino a tematiche di natural language understanding che richiedono l'integrazione con sistemi esperti o sistemi in grado di trattare la conoscenza a prescindere da quello che è il semplice riconoscimento di un segnale acustico. Facciamo alcuni esempi, così capiamo anche qual è l'utilizzo che noi possiamo fare di queste tecnologie, che ricordiamo sono estremamente complesse, non sbaglio. Direi proprio di sì e sono anche uniche, siamo orgogliosi di essere italiani e leader in questo settore. Allora, un primo utilizzo, l'abbiamo anche citato, sono ad esempio l'interazione che noi abbiamo con sistemi che ci stanno attorno magari anche tutti i giorni, cioè un navigatore satellitare. Sappiamo che il navigatore risponde. Ecco, in quel caso si tratta di una voce preregistrata che dice sempre le stesse cose, o effettivamente ci sono dei navigatori o altri sistemi che capiscono cosa sta succedendo, magari anche da informazioni che arrivano dall'esterno e quindi dicono cose originali? Certo, la navigazione è un ottimo esempio, perché è nata esattamente come lei diceva, quindi nasce con l'inserimento di file acustici che poi venivano incollati, generati come file unico semplicemente incollando dei pezzi preregistrati, quindi uno speaker registrava dei file su un sistema informatico e il sistema informatico andava a comporre semplicemente le informazioni che erano il gira a destra tra, prendeva il file specifico per la distanza della svolta che il navigatore voleva comunicare all'utente, lo incollava e veniva fuori una frase del tipo gira a destra tra 300 metri e qui si fermava. E questo è molto semplice. Questo è molto semplice, questo è il modo in cui sono nati i navigatori. Ci si rese conto che dal punto di vista anche della fruibilità, avere delle informazioni aggiuntive, ad esempio il nome della via, ad esempio informazioni sul traffico, ad esempio informazioni anche multimediali legate all'utilizzo dello strumento di navigazione era una cosa interessante. Quindi su questo abbiamo iniziato a esplorare con i leader di mercato il mondo della navigazione, TomTom è un esempio, ma abbiamo anche molti altri partner con i quali collaboriamo, per introdurre questa tipologia di interazione che consentisse al guidatore, senza distogliere lo sguardo, senza distogliere le mani dal volante, di interagire con un oggetto che gli consentiva di guidare in un luogo non conosciuto. Quello, visto che nelle ultime settimane più di un ospite ha citato il settore del infotainment all'interno delle automobili, è un settore che anche voi state vedendo in forte crescita? Certo, io ritengo fondamentale l'utilizzo di tecnologie come la nostra in questo settore, soprattutto quando la dinamicità dell'informazione rende impossibile l'utilizzo di voci umane, quindi l'infotainment incluse anche le informazioni specifiche, non necessariamente la parte entertainment dell'infotainment, anche la parte info, quindi quando c'è un'informazione estremamente estremamente dinamica, estremamente articolata nella quantità di informazioni da comunicare al guidatore o al fruitore del servizio, la tecnologia di sintesi può, con i livelli che abbiamo sentito prima, comunicare con l'umano, può consentire alla macchina di erogare queste informazioni. Cioè, per fare un esempio, voi dite, non so se già oggi è possibile, un navigatore, un altro sistema a bordo di un'automobile potrebbe, utilizzando la voce sintetica, leggerci le previsioni del tempo oppure le informazioni sul traffico di pochi minuti fa, invece di un testo, oppure invece di aspettare magari l'ora in cui a Radio 24 viene fatto o il giornale radio oppure le informazioni sul traffico, la macchina già in tempo reale ci legge quello che riceve. Assolutamente sì, la macchina può, grazie a una logica che già oggi può succedere questa cosa. Già oggi può succedere, è fondamentale quello che è la logica di servizio, quindi non tanto il mezzo che viene utilizzato per comunicare, perché quello lo dominiamo e siamo disponibili già da anni nell'erogare questo tipo di informazione. L'intelligenza che sta dietro al servizio, che va a profilare ad esempio le informazioni che possono essere pertinenti rispetto agli usi e ai costumi del guidatore, piuttosto che alla condizione in cui si trova, piuttosto che alla localizzazione geografica dell'autoveicolo, chiaramente devono essere integrati con le sorgenti delle informazioni e possono beneficiare dei nostri sistemi di sintesi, in questo caso per comunicare. In più, i sistemi di riconoscimento possono permettere un'interazione sicura nel mondo della guida, è particolarmente evidente, però sta emergendo anche in molti altri settori. Nel mondo della guida, quando stiamo guidando, tipicamente non dobbiamo spostare gli occhi dalla strada, non dobbiamo spostare le mani dal volante e dal cambio. Possiamo fare altri, anche in maniera molto veloce accennata, altri esempi di come e dove viene usata la vostra tecnologia? Allora, partiamo dai canali più tradizionali. Ho parlato prima di Interactive Voice Response System, quindi gli IVR, risponditori automatici. Gli IVR, risponditori automatici, stanno diventando sempre più importanti come filoni di applicazione delle nostre tecnologie, grazie alla disposizione che soprattutto nei paesi anglosassoni i clienti hanno nell'interagire con la macchina. Quindi è chiaro che la macchina sta erogando un servizio, è chiaro che la macchina, così come l'operatore umano, può avere delle incomprensioni e quindi necessita di un tipo di interazione molto, molto collaborativo da parte dell'utente, del cliente. Dunque, a questo punto uno potrebbe preoccuparsi, chi lavora in questi settori che abbiamo citato, anche noi che facciamo la radio, potremmo preoccuparci perché tra qualche anno potrebbe succedere che i computer ci possano sostituire. Qui apriamo il capitolo della capacità delle macchine di essere completamente autonome o comunque riuscire a capire tutto quello che un umano dice e a parlare anche in maniera molto naturale. Abbiamo anche altre due persone, se non sbaglio, che parlano con la voce di Loquendo, che ascoltiamo. Qua ci si apre un altro capitolo. Ehi, Giulia, ciao. Oh, ciao, che sorpresa! Come stai? Io benone. E tu? Sono tornato solo ora e a dirla tutta mi sei mancata. Ma davvero? Anche tu? Potremmo, che so, andare insieme al cinema. Oppure andare a mangiare qualcosa insieme. Perfetto! Così finalmente potrò dirti che ti amo tantissimo. Dammi un bacio. Da non credere. Ehi! Assurdo! Era solo un sogno? Accidenti! Dunque, quello che abbiamo ascoltato è un dialogo tra due computer, giusto? Assolutamente sì. Ecco, volevo capire fino a che punto queste macchine, questi sistemi possono restituirci un'esperienza molto simile, se non uguale, a quello che succede tra due persone umane, come naturalezza del linguaggio, come soprattutto comprensione. Ha toccato un tema fondamentale. Per quanto riguarda la comprensione, abbiamo messo del nostro nel rendere chi ha potuto apprezzare la qualità della voce, quella femminile forse più naturale di quella maschile, e questo è anche frutto di questo processo che citavamo prima di produzione molto, molto umano ancora. Per quanto riguarda l'intelligenza, quindi se parliamo di AL 9000, ecco, non è nel nostro dominio di di competenza. Se qualcuno riuscirà a fare delle macchine intelligenti come un uomo, allora saremo veramente in difficoltà. Diciamo che voi vi limitate a fare quel pezzetto che permette alla macchina di comprendere quello che viene detto. Poi c'è tutto un processo che deve comprendere il concetto. Esattamente, okay, non solo esattamente. La sillabazione e la pronuncia. Così, no? Così come sulla sintesi, quindi nella generazione della voce, noi cerchiamo di renderla molto naturale, molto intelligibile. Quello che viene detto, per capirci, viene integrato, viene definito, viene pensato da altre macchine che possono essere più o meno intelligenti a seconda del... Bene, io ringrazio per essere stato con noi Davide Franco, amministratore delegato di Loquendo. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. ...2024. Abbiamo un ultimo argomento per la puntata di oggi. Parliamo di intrattenimento domestico, potremmo dire così. In molte case, quando c'è un collegamento ad internet, magari anche una piccola rete di computer, crescono i contenuti, musica, film o di altro tipo. Prescindiamo dal fatto che questi contenuti siano ottenuti in modo legale o illegale, comunque il mercato che cerca di risolvere i problemi che si creano per la gestione di questi contenuti sta crescendo. È un mercato interessante, ogni tanto ci arrivano alcune domande, di questo vogliamo parlare oggi. Saluto Marco Dalli della redazione del magazine online dday.it. Ciao Marco, benvenuto 2024. Grazie e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Un termine che fino a poco tempo fa molti utilizzavano e forse alcuni ascoltatori conoscono era quello del media center. Oggi però i più esperti, e forse anche andando in un negozio, si capisce che oramai se uno chiede un media center forse le risposte che gli vengono date sono le più varie. Allora, prima domanda, esistono ancora i media center? Sì, in realtà per media center si intende tipicamente un computer con magari un sistema operativo Windows da installare di fianco alla televisione. Oggi in realtà questo termine è un po' in disuso perché questa categoria si è evoluta, non sono più dei computer veri e propri, sono degli scatolotti molto più piccoli che consumano molto meno corrente, sono molto più silenziosi e montano dei sistemi operativi che in realtà sono proprietari, quindi non più Windows ma sistemi operativi dedicati al media player. E poi spieghiamo queste scatole che cosa fanno. Il punto di partenza è una TV connessa o alla rete domestica o alla rete internet, cioè per diciamo, creare questo ecosistema di cui vogliamo parlare oggi è necessario questo primo elemento. In realtà la TV può anche essere disconnessa dalla rete, può essere una TV... Okay. Anche di un vecchio modello, per intenderci. Quello che deve essere connesso alla rete, o meglio può essere connesso alla rete, è il lettore multimediale. Quindi questo lettore multimediale potrebbe mandare il segnale, il contenuto alla TV anche con un altro tipo di connessione, non la rete del network domestico. No, usa le connessioni audio video tradizionali, quindi il cavo SCART se uno ha un vecchio televisore o un cavo HDMI se la TV è in alta definizione, per esempio. Okay. Questi sono termini che stanno cominciando a diventare importanti, anzi quando andiamo in un negozio la connessione HDMI ci viene spesso sì, è la connessione citata. Del futuro, insomma. Se qualcuno è abituato magari a vedere la vecchia SCART, l'HDMI è il futuro, è digitale, è molto più piccola. È l'evoluzione, potremmo dire. È l'evoluzione, sì, sicuramente l'evoluzione. Senti, questi scatolotti come li chiamiamo? Hanno tanti nomi, potremmo chiamarli digital media player, nel senso che sono dei lettori di contenuti digitali, oppure qualcuno li chiama network media player, perché sono dei lettori che riproducono un contenuto che è presente in rete. La rete può essere domestica o più in generale la rete intesa come internet. Fammi un esempio di un sistema che potremmo avere in una casa, cioè da dove arrivano i contenuti, dove stanno i contenuti, perché questo è un elemento da non sottovalutare, come i contenuti vengono poi utilizzati e visti in TV. Poi di contenuti, quando parliamo di contenuti parliamo di video. Sì, video tipicamente file DVX che magari qualcuno conosce, oppure audio come file MP3. Questi contenuti in realtà possono risiedere o in locale, cioè all'interno del lettore multimediale, oppure connessi direttamente tramite una chiavetta USB o un disco esterno, oppure possono stare in rete, ad esempio in un computer, oppure in un NAS, che è una sorta di scatolotto con dentro dei dischi fissi che condivide il contenuto di questi dischi all'interno della rete domestica. Sì, diciamo potrebbe essere un hard disk di rete. Sì, è un hard disk di rete, sì, esatto. Sì, anche direttamente sulla TV potrebbero essere? Cioè ci sono delle TV che hanno gli hard disk? C'è qualche TV che ha l'hard disk, però sono veramente pochi modelli. In rete? Cioè in rete inteso in internet? In internet molti di questi lettori possono accedere a servizi come per esempio YouTube per vedere i video, oppure radio su internet, servizi di foto come Flickr e Picasa ad esempio, oppure altri servizi di web TV, cose così. Senti, facciamo un esempio, io ho un computer, ho un hard disk di rete dove faccio il mio archivio, anche il mio backup, quindi ho l'archivio di tutta la mia dotazione di contenuti digitali, film, magari acquistati anche legalmente, visto che questo è un altro dei grandi problemi, perché quando si fa riferimento a grandi quantità di film o di musica, in molte case, ahi noi, questi contenuti non sono legali. Ma saltiamo questo passaggio. Io ho questo mio hard disk, mi compro un bel network player che mi permette di vedere questi contenuti sulla TV. Dopodiché devo stare attento a qualche cosa, ad esempio gli standard. Tutti questi aggeggi si parlano tranquillamente tra di loro o ci sono dei problemi? No, diciamo che non ci sono grossi problemi a far interagire un disco di rete con un lettore di rete. Ci sono però vari standard con cui questo può essere fatto. Dal più semplice, anche un pochino più anziano, che può essere la condivisione di rete, che viene anche tranquillamente utilizzata anche sui PC Windows o Mac o Linux, a nuovi standard che stanno prendendo sempre più piede, come per esempio il DLNA. DLNA è uno standard che si propone di semplificare il dialogo tra questi tipi di apparecchi, quindi tra un lettore e un server, un disco di rete o un computer. Quindi quando diciamo vogliamo acquistare o ci interessiamo a uno strumento del genere, dobbiamo stare attenti che abbia una connessione DLNA. Sì, questo è un buon inizio. Questo però non significa che avendo una connessione DLNA il lettore possa leggere qualsiasi file presente sul disco. Questo standard in realtà è uno standard di connessione e tra i suoi requisiti ci sono solo una serie di file che il lettore deve poter leggere per essere certificato DLNA. Quindi ad esempio esistono dei client DLNA, quindi dei player, che fanno per esempio solo le foto, non sono assolutamente in grado di riprodurre video. Quindi bisogna stare anche attenti a cosa sono effettivamente in grado di riprodurre i lettori. Sperando che il commesso che ce lo vende lo sappia. Esatto, sì. Senti, filo o wifi? Diciamo che il filo è ancora meglio. Sono un grande sostenitore dei fili. Sì, decisamente. Il problema del wifi è che può andare bene in un certo senso per contenuti di basso livello come per esempio le canzoni o le foto, però se si vuole condividere un video è molto meglio il filo, anche perché in un mondo in cui le wifi stanno crescendo sempre di più si verificano sempre più spesso purtroppo problemi di sovrapposizione. Cioè cosa significa? Se io ho una rete wifi e il mio vicino ha una rete wifi sullo stesso canale radio, perché le reti wifi funzionano in radiofrequenza, può succedere che questi due canali si sovrappongano e si picchino tra di loro, diciamo. Quindi il segnale non mi arriva pulito e posso avere delle interruzioni durante la visione, quindi molto scomodo. Questo col cavo tipicamente non succede, perché la banda... Sì, questo è anche uno dei motivi per cui si consiglia sempre, quando uno o ristruttura la casa o sta costruendo una casa, di pensare ad una connessione casalinga in rete fatta coi fili. Sì, certamente. Il wifi può andare bene se uno ha una villetta, diciamo, isolata in mezzo alla campagna. Però in città, con tanti appartamenti sovrapposti l'un con l'altro, è sempre meglio il filo. Sì. Con l'escalation dei wifi, tra l'altro dei wifi non solo quelli che servono per collegare magari il computer con la DSL o con altri sistemi, ma anche wifi che vengono utilizzati da altri sistemi elettronici per parlare tra di loro, come ad esempio questi media player. Sì, certo, ci sono i media player, posso usare il cellulare con la connettività wifi in casa. Sì, ci sono addirittura gli home theater. Ci sono gli home theater wifi, cioè. Sì, gli usi stanno crescendo sempre di più, quindi il problema è reale, insomma. Senti, quanto costano questi aggeggi? Il costo in realtà è vario, si va dal lettore base, che può essere un hard disk con semplicemente delle uscite audio video, che ha un costo tipicamente leggermente superiore a quello del disco senza le uscite, quindi si parla di un 150 euro, fino a lettori più evoluti che possono costare anche 300-400 euro a seconda delle funzioni. Ce ne sono alcuni che per esempio hanno anche un sintonizzatore digitale terrestre integrato consentono anche di registrare la televisione e di conservare le proprie registrazioni e poi rivederle. Quando i programmi non sono chiaramente criptati. Quando i programmi non sono criptati. Sì. Purtroppo questo sta aumentando e questo sarà un problema. Grazie Marco, a presto, buon lavoro. Grazie anche a voi. Una versione più lunga e approfondita di questa chiacchierata che abbiamo fatto con Marco Dalli la troverete nel file MP3 che trovate sul nostro sito internet attraverso il servizio podcast, file che sarà disponibile entro 1:30 dalla fine della trasmissione, quindi tra poco potrete riascoltare e scaricare il nostro file. È tutto per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio 24 tra le 16 e le 17. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.